adesso vogliamo addentrarci nella parola. Io voglio ringraziare Melissa, vogliamo farle un applauso o un grazie o un like sulla chat. Grazie per il tuo servizio e occhio perché ti stai portando un faro con te. È così bello, il bello della diretta, è così bello essere insieme in questo momento. Io ho un messaggio per tutti noi che credo che darà una prospettiva alle nostre vite importante. Oggi è domenica di Pasqua, oggi è un giorno di festa. Io lo voglio ricordare, oggi è un giorno di festa. E quale festa? Per il cristianesimo, per ogni persona che è cristiana, per ogni chiesa. Questo è un giorno speciale, anzi io direi che questa è la ricorrenza più importante che la Chiesa possa celebrare. Qualcuno ha detto giustamente che per 2000 anni la Chiesa in questo giorno si è riunita fisicamente per festeggiare, e questo è un tempo storico perché per la prima volta in 2000 anni la Chiesa è dislocata nelle diverse case, ma non per questo questo giorno è meno glorioso, e non per questa ragione noi ci faremo derubare della gioia di questa festa. Questa è una festa, è una celebrazione, quella di oggi, di Pasqua, che annuncia la liberazione. Questo è un giorno di liberazione, la resurrezione è sinonimo di liberazione, la resurrezione è sinonimo di vittoria, la resurrezione è sinonimo di vita. E quindi noi oggi celebriamo liberazione, celebriamo vittoria, celebriamo vita. Eppure forse qualcuno in questo momento si sta domandando, ma è proprio il caso di celebrare queste cose? Perché proprio oggi e proprio in questo tempo storico che tutto il mondo sta vivendo, e noi in modo particolare qui in Italia, al posto di liberazione ci sentiamo in una condizione di restrizione, e al posto di sperimentare vittoria, le notizie, le cose che accadono ci fanno sentire sconfitti, e al posto di avere la possibilità di celebrare la vita, oggi siamo accerchiati da morti, da persone che stanno perdendo la vita. E questo è tutto vero, però io voglio ricordarci che oggi più che mai abbiamo la grazia e l'opportunità di celebrare la vittoria della resurrezione di Cristo Gesù. Forse qualcuno si sta dicendo oggi è il momento meno opportuno per festeggiare. No, tutt'altro, questo è il giorno più idoneo per celebrare e per riconoscere la luce della vita, della liberazione, della vittoria che c'è nella resurrezione di Cristo Gesù. E forse tu ti stai facendo un sacco di domande in questo periodo, che tu sia credente o non credente. Questo è un tempo di quesiti, questo è un tempo dove sorgono dei dubbi, dove ci chiediamo, ma dov'è il Salvatore che ha annunciato liberazione? E dove possiamo trovare questa salvezza, questa soluzione nelle nostre vite? E io voglio dirti che la Pasqua è una risposta secca, è una risposta piena, è una risposta col punto esclamativo. La Pasqua è una risposta col punto esclamativo. Questo giorno è un giorno di risposte, dove ogni dubbio può essere eliminato e può essere schiacciato dalla verità della parola di Dio. Ora, non c'è dubbio, è davvero impossibile negare che viviamo in un mondo in rovina, vero? Che tu sia cristiano o che non sia cristiano, che tu sia cristiano evangelico, cristiano cattolico, che tu credi in un altro Dio o vivi un'altra religione, tutti possiamo essere d'accordo su questa cosa. Viviamo in un mondo che è a dir poco imperfetto, viviamo in un mondo che è in rovina, e non mi riferisco solo alla malattia del virus che sta affliggendo quasi globalmente la nostra terra. Io mi riferisco in generale alla sofferenza che noi viviamo in questa terra. Non mi riferisco solo alla malattia del coronavirus, ma pensate un po', ogni anno 1 milione e 700.000 persone muoiono di cancro. In tutto il mondo 1.700.000 persone muoiono di cancro. Questo significa che noi ogni giorno abbiamo un centinaia e centinaia di persone che muoiono per questa malattia. Stando ai dati, in Italia noi abbiamo una mortalità che si aggira intorno a 500 morti di cancro ogni giorno. E questo è solo per citare una delle tante malattie, ma questo mondo è in rovina e noi vediamo devastazione e sofferenza in tante altre malattie, in malattie che creano impedimento, malattie disabilitanti, malattie che affliggono i bambini dalla loro nascita. Noi ci rendiamo conto che siamo in un mondo che è malato e ci rendiamo conto che in questo mondo ci sono tante cose che non vanno. I notiziari in queste settimane sono pieni di questa del coronavirus, di notizie che riguardano il coronavirus, ma questo può distoglierci dall'attenzione di tante altre notizie negative a cui non viene dato spazio, ma in questo tempo, più che mai, le violenze si moltiplicano. Leggendo qualche articolo qualche giorno fa, mi sono imbattuto sulla problematica delle violenze domestiche. In questo tempo, data la quarantena alla quale siamo costretti, le violenze domestiche si stanno moltiplicando ed è una piaga nella nostra nazione e nel mondo. Ci sono soprusi, ci sono abusi, ci sono guerre in atto in questo momento, ci sono situazioni di guerre, di pestilenze in tutto il mondo, di carestia, di fame, di povertà. Il mondo nel quale noi viviamo, io credo che possiamo essere d'accordo pienamente tutti quanti, chiunque è connesso in questo momento e il mondo intero può riconoscere che viviamo in un mondo in rovina, guerre, terremoti, le locuste, non si sta parlando tanto di questo, ma stanno devastando il continente dell'Africa e tutto questo porta rabbia e depressione. Forse queste sono le due reazioni che più comunemente viviamo, rabbia, e cerchiamo di trovare chi è il colpevole e ci incolpiamo a vicenda, cerchiamo di trovare colpe in altri uomini e se non le troviamo negli uomini incolpiamo Dio stesso e quindi siamo arrabbiati oppure cadiamo nella depressione, nella tristezza, nella paura, nel vuoto, nell'inconsapevolezza di quello che ci sta davanti. Ora io voglio che noi oggi, riconoscendo che il mondo nel quale viviamo è imperfetto, troviamo insieme delle risposte nella parola di Dio, perché la Bibbia, che è la parola di Dio, ci dà risposte. E se tu seguirai questo messaggio fino alla fine, io ti assicuro che avrai modo di immagazzinare delle verità e che toglieranno dubbi nella tua vita. La Bibbia dice che il problema di questo mondo è un problema di natura spirituale, un problema invisibile. Il problema di questo mondo è il male, o altrimenti chiamato peccato. E il male è qualcosa che non solo noi viviamo dentro di noi. La Bibbia dice che il male è dentro di noi, Romani 7 ci dice questo, e domina su di noi, il male è sopra di noi, quindi, anzi ve lo voglio leggere, in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 19 c'è scritto questo, c'è scritto: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo, ascoltate, tutto il mondo, tutto il globo, tutti compresi, tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo lo troviamo nella lettera di 1 Giovanni al capitolo 5, versetto 19. Efesini 2 ci dice che il male è attorno a noi, quindi è ovunque, dentro di noi, è attorno a noi, è sopra di noi, ci domina. Questo è il problema invisibile, un po' come il virus che non si vede, eppure puoi esserne portatore senza manifestare nessun tipo di sintomo. Così è il male, noi lo viviamo dentro di noi e lo trasmettiamo gli uni agli altri. Questo è ciò che schiaccia la nostra terra, ciò che schiaccia il nostro mondo. Ogni distruzione, ogni piaga, ogni malattia, ogni ingiustizia, ogni violenza, ogni guerra è attribuibile al male. La Bibbia non ci parla solo di Dio, la Bibbia non ci parla solo dell'autore di vita e del bene, la Bibbia ci parla anche della morte, ci parla anche dell'autore del male, e l'autore del male è Satana, e Satana ha dominio su questa terra perché noi abbiamo concesso a lui questo dominio nel momento in cui abbiamo disubbidito e voltato le spalle a Dio. Io voglio dirti anche questo, che la Bibbia mostra qual è la soluzione. Forse non accetterai quello che ho da dirti, ma non c'è altra risposta. Puoi cercare risposte in tanti modi migliori, puoi cercare risposte in cose che credi poter essere migliori della risposta che io ho da darti questa mattina. Sicuramente tutti vogliamo una risposta al virus in un vaccino. Chi non sta aspettando il momento in cui verrà scoperto il modo per vaccinarci e proteggerci da questo vaccino? O forse stiamo aspettando una risposta e una soluzione nell'attenzione dell'Europa che può aiutarci da un punto di vista economico, ma queste soluzioni temporanee e passeggere non potranno mai perfezionare il mondo nel quale noi ci troviamo. Non saranno una risposta e una soluzione esauriente, esaustiva per quella che è la nostra rovina. Il male è dentro di noi, il male è su di noi, il male è attorno a noi. La soluzione che la parola di Dio ci mostra è Cristo Gesù. La soluzione ha un nome e il suo nome è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il centro della parola di Dio. Ogni cosa è stata fatta in vista sua e ogni soluzione c'è nel suo nome, nei suoi gesti, nei suoi atti, nella sua vita e poi in ultimo nella sua morte e resurrezione. C'è una soluzione per questo mondo, c'è una soluzione per il male nella tua vita, c'è una soluzione per il male nella mia vita. La soluzione è Cristo Gesù. Noi leggiamo nella parola di Dio che con la sua morte Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Cioè lui ha pagato il prezzo delle nostre colpe, le colpe che ci separano da Dio, le colpe che ci mettono in questa condizione di oppressione, di vivere male interiore, male esteriore e dominio da parte del male sopra di noi. Dio è venuto, si è incarnato in Cristo Gesù ed è morto sulla croce, è morto per pagare un prezzo, è morto per pagare il prezzo di riscatto che ci libera dal male e ci offre la possibilità di avere relazione con il nostro Creatore. Non siamo più separati da Dio se crediamo nel sacrificio di Cristo Gesù. Non hai più motivo di vivere in isolamento sotto la cupa oppressione del male in questa terra. Se credi in Cristo Gesù, lui ti libera e tu hai la possibilità di entrare in relazione intima, personale con il tuo Creatore, il tuo Padre, che ti dà vittoria e ti libera dal male. Gesù afferma proprio questo, o meglio la lettera ai Colossesi, la parola di Gesù dice questo: Dio ci ha liberati. In Colossesi 1, versetto 13, leggo questo: Dio ci ha liberati. Chiesa, celebriamo questo giorno perché è un giorno di liberazione, è un giorno che ci ricorda la liberazione ottenuta in Cristo Gesù. Questo verso dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. Dal potere delle tenebre ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui, nel Figlio, in Cristo Gesù, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Se tu oggi mi stai ascoltando e ti senti sporco, ti senti oppresso, senti che il male è dentro di te, sei consapevole che sei indegno di un Dio che è santo, perfetto, indegno di avere una relazione diretta, personale con Lui, a tu per tu, allora io ti dico, amico, che c'è una soluzione a questo male. E la soluzione ha un nome ed è Cristo Gesù. Lui ha pagato il prezzo dei tuoi peccati, delle tue colpe, della tua disubbidienza, di ogni macchia che senti interiormente, del tuo passato, qualsiasi sia il percorso di vita che hai vissuto finora, c'è una soluzione per rinascere e avere una nuova vita in Cristo Gesù. Lui ti libera dall'oppressione delle tenebre e ti porta nella luce. Quali sono le tue tenebre oggi? E mi riferisco anche a ogni credente cristiano che mi sta ascoltando in questo momento. Quali sono le tue tenebre oggi? La paura, l'ansia. Qual è la tua oppressione in questo giorno? Il disorientamento, la mancanza di prospettiva per il futuro, il sentirti solo, la solitudine. Per ognuna di queste cose e ogni altra forma di male, Gesù è morto per te, per darti vittoria. Tu hai l'opportunità di vivere il più grande dei privilegi, essere liberato dal male, il vero danno, la vera rovina di questo mondo che è chiamato peccato. Ora forse ti stai domandando, ma cosa ha di così risolutiva la resurrezione di Cristo Gesù? Cos'è che c'è che è così glorioso nella resurrezione di Gesù? Io ti voglio dare due risposte importanti, fondamentali, perché noi riconosciamo la gloria della resurrezione e la potenza di questo atto nel fatto che attraverso la resurrezione noi abbiamo dimostrazione del fatto che Gesù è Dio. Ascoltatemi bene. La resurrezione dimostra che Gesù è Dio, che Gesù non è solo un buon insegnante, che Gesù non è solo un buon maestro di vita, che Gesù non è stato solo un gran benefattore che ha amato tante persone, ha portato benedizioni nelle loro vite, li ha liberati dall'oppressione di malattie. Gesù è molto più di tutto questo. Gesù stesso è Dio e Dio ha dimostrato di essere Dio nell'atto della resurrezione perché la morte non poteva dominare su di lui. Lui è in dominio su ogni cosa, anche sulla morte. Leggete con me questo passo che troviamo in Giovanni al capitolo 2, meraviglioso, è straordinario. Dopo che Gesù entra nel Tempio e fa piazza pulita dei mercanti, delle persone che erano lì e disonoravano quel luogo, i giudei presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? In altri termini, con quale autorità tu credi di poter venire in questo tempio, fare piazza pulita delle situazioni che non vanno bene, e dichiararlo un luogo di preghiera, un luogo del Padre, di tuo Padre? Come puoi dichiarare una cosa del genere? E nel verso 19 noi leggiamo che Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Lo rileggo: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Egli parlava del tempio del suo corpo. Amici, ascoltate queste parole perché sono straordinarie. Se è paradossale che Gesù potesse dire: io distruggo questo tempio di pietre e lo ricostruisco in 3 giorni. Quanto più incredibile e paradossale è affermare: io depongo la mia vita, mi metto a morte e poi risorgo. Quale uomo può dichiarare una cosa del genere? Tanti uomini su questa terra hanno dichiarato di essere Dio e tante religioni adorano degli uomini che poi sono morti. Gesù è l'unico uomo sulla faccia della terra che ha dimostrato di essere 100% Dio, totalmente Dio, perché lui ha dichiarato di se stesso: io depongo la mia vita e la faccio risorgere. Notate le parole, Gesù non dice qua che qualcun altro lo farà risorgere. Gesù dice: in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù sta dicendo: io risuscito me stesso. Io sono talmente in autorità e talmente potente, io vi dimostro che sono Dio e posso ogni cosa, perché farò risorgere il mio stesso corpo che voi ucciderete. Continuo la lettura, al versetto 22. C'è scritto: quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Vedete, i discepoli hanno creduto realmente a tutto quello che Gesù ha insegnato, a ogni cosa che lui ha manifestato, a ogni dottrina che ha presentato, a ogni verità che ha presentato, solo all'atto della resurrezione. Beh, perché prima della sua resurrezione si poteva ancora pensare che Gesù fosse un ciarlatano, e questa sicuramente è l'idiozia più grande che Gesù potesse mai dire se non fosse stato Dio. L'idiozia più grande che Gesù potesse mai dire è proprio: io morirò e poi farò risorgere me stesso. Quale uomo si può permettere di dire una cosa del genere? Gesù si è esposto nel dire questa cosa per dimostrare al mondo intero: guardate, io non sono un uomo qualunque. Guardate, io non sono solo un buon profeta, un buon insegnante, una brava persona che fa degli atti caritatevoli. Io sono Dio incarnato e io ho autorità sulla morte. Quale dimostrazione straordinaria, segno inequivocabile del suo essere Dio, la sua resurrezione. Sapete cosa significa tutto questo? Cosa implica tutto questo? Che come Gesù ha detto il vero quando ha dichiarato: distruggete questo tempio e io lo farò risorgere in 3 giorni, una dichiarazione straordinaria, allora così è vera ogni altra promessa che Gesù ci fa. Ogni altra promessa che Gesù fa nei Vangeli e che tu e io possiamo leggere insieme sono verità, e lui mantiene ciò che promette. Ciò che lui dice di essere è veramente. Ciò che lui dice di fare lo fa realmente. Quindi tu ti puoi fidare: se lui è stato capace di risorgere se stesso, quanto più lui sarà capace di aiutarti nel giorno del bisogno, quanto più lui ti farà abbondare di benedizioni nel momento e nel giorno dell'ansia, della preoccupazione. Gesù dice: non siate preoccupati per cosa alcuna, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e ogni cosa vi sarà sopraggiunta. Se Gesù afferma questa promessa è vera, perché lui è Dio ed è in autorità su ogni cosa. Gesù dice: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità è stata data a Gesù in virtù della sua resurrezione. Lui ha vinto la morte. E sapete quello che è successo all'atto della morte? Che lo hanno chiuso in una tomba e hanno sigillato quella tomba. Perché hanno sigillato quella tomba? Beh, perché i religiosi che avevano ascoltato Gesù dire: in 3 giorni io risorgerò me stesso, io tornerò in vita, si sono voluti assicurare che i discepoli non andassero lì per prendere il corpo di Gesù, farne qualcosa e cominciare a dire in una qualche maniera che Gesù era risorto, cosa falsa. E quindi misero dei soldati a guardia di quella tomba, e in quella pietra che fu rotolata davanti alla tomba misero un sigillo. E quello che doveva essere un sigillo a dimostrazione del fatto che Gesù non era in grado di risorgere è stata la vera dimostrazione del suo essere Dio e la sua dimostrazione anche storica di vincere e di sigillare l'atto più glorioso della storia dell'umanità, la resurrezione, la vittoria sul male, la vittoria sulla morte, l'attuazione di ogni promessa. Puoi fidarti di Gesù. Gesù è Dio. Gesù è la soluzione di questo mondo. E se a questo punto del messaggio ti stai chiedendo, ma come praticamente lui può essere la soluzione nella mia vita? Come può essere il salvatore della mia famiglia? E come mai in questo mondo noi vediamo ancora tanta rovina, tanta malattia, tanta disperazione? Beh, la risposta è in questo secondo aspetto che voglio condividere con voi. La gloria della resurrezione sta nel fatto che la resurrezione di Cristo è l'evidenza della vita eterna. Ascoltatemi bene, la resurrezione di Cristo ci annuncia qualcosa di glorioso, ci annuncia la realtà di una vita ultraterrena, una vita dopo la morte. La resurrezione di Gesù dimostra che c'è vita dopo la morte. La resurrezione di Gesù ci dimostra che non finisce tutto nel momento in cui noi moriamo e la nostra permanenza terrena è solo un tempo limitato della nostra esistenza. Il vero tempo, il tempo più lungo è proprio dopo la morte. Dopo una morte che sarà per noi credenti e cristiani solo un passaggio a miglior vita. Gesù dice che lui è andato a preparare per noi un posto. E questa è un'altra affermazione alla quale noi possiamo porre piena fiducia. Noi possiamo essere certi che lui sta preparando per noi un posto e che noi saremo accolti da lui in un posto migliore. Se ti stai chiedendo qual è la soluzione per un mondo in rovina, qual è la soluzione per un mondo disastrato e imperfetto, la soluzione è un nuovo mondo. La soluzione è una nuova terra. La soluzione sono nuovi cieli, come ci viene descritto nella parola di Dio. E la soluzione finale noi la potremo gustare nell'atto del ritorno di Cristo o nell'atto del nostro passaggio nel quale noi andremo da Lui. Questo sigillerà la piena soluzione per le nostre vite. Questa è l'aspettativa di ogni credente. Non abbiamo paura della morte, anzi attendiamo quel momento con speranza, perché sappiamo che all'atto della morte c'è qualcosa che avverrà che è molto più glorioso. I nostri corpi possono qui ancora oggi essere malati, possono ancora e sicuramente tutti patiscono l'invecchiaia, la vecchiaia, tutti noi subiamo queste cose in questo mondo ancora imperfetto e corrotto, ma all'atto della glorificazione dei nostri corpi, ovvero quando moriremo, gusteremo la vita eterna in corpi incorruttibili e sempre perfetti, sempre guariti. Quando Gesù dice che è morto per le nostre malattie, per le nostre lividure, per ogni nostra oppressione, è qui che noi dobbiamo comprendere che la salvezza non è solo per questo soggiorno terreno, sebbene possiamo pregare e credere nella sua guarigione fisica oggi, ma quello che ci è dato di vivere su questa terra è pregustare la salvezza eterna. Noi oggi viviamo quello che il popolo di Israele ha vissuto. La Pasqua ci ricorda la liberazione che il popolo di Israele ha avuto dalla schiavitù dell'Egitto e dopo essere stati liberati dagli Egizi hanno avuto la possibilità di passare attraverso il Mar Rosso, che è simbolo del battesimo, il battesimo in acqua che è atto di completa resa a Gesù Cristo. E dopo il passaggio nel Mar Rosso, il popolo di Israele si è ritrovato a pellegrinare nel deserto, a vivere questo percorso dove Dio era sempre presente, dove Dio provvedeva, dove Dio era soluzione, conforto per tutto il popolo di Israele, ma non mancavano le sfide, non mancavano le prove. E noi ci troviamo, se vogliamo, in questa fase nel deserto, in cammino verso la terra promessa. Lì ci sarà la soluzione completa, lì ci sarà la soluzione perfetta. In Giovanni al capitolo 3, versetto 16, è Gesù che dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Fatemelo rileggere questo verso, perché è così significativo per ciascuno di noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque mi sta ascoltando ora, questo messaggio è per te, chiunque è connesso in questo momento o ascolterà questo messaggio in differita, chiunque, questo appello, questo invito è per te, tu sei quel chiunque crede in Lui, credi in Gesù, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. In 1 Corinzi al capitolo 15, versetto 9, l'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, riferito a questa vita terrena, questa vita passeggera, breve, in contrapposizione, in confronto all'eternità. L'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Gesù non è venuto solo per darci un migliore soggiorno terreno. Lui ha previsto che noi in questo soggiorno terreno affronteremo prove di vario genere, affronteremo situazioni difficili, malattie e persecuzioni e cose che porteranno tristezza nella nostra vita. Il mondo nel quale noi viviamo è meraviglioso ed è terribile allo stesso tempo. Pensateci un attimo, è meraviglioso perché viviamo dei momenti, degli istanti di gioia meravigliosi. Nello stesso istante ci può essere una famiglia che gioisce e ha talmente tanta gioia che riversa lacrime di gioia per la nascita, ad esempio, di un bambino. E nello stesso istante ci può essere, e c'è sicuramente un'altra famiglia che versa lacrime di angoscia per la perdita di un caro. Questo è il paradosso nel quale noi viviamo, e Gesù ci invita a piangere con chi piange e a gioire con chi gioisce. E questa è la straordinaria opportunità che è data a noi credenti di essere sempre sicuri in Cristo Gesù, nella speranza eterna, e dare conforto a chi sta soffrendo, a piangere con chi piange e a ridere con chi ride, e a vivere in questa condizione nell'attesa della speranza eterna che abbiamo in Cristo Gesù, della vita nei nuovi cieli e nella nuova terra che avremo in Cristo Gesù. Permettetemi di leggere questi ultimi versi che si trovano in 1 Pietro al capitolo 1 dal versetto 3, e questi versi dicono: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ascoltate ora: per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Noi siamo custoditi oggi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, gioia, felicità, festa, celebrazione. Oggi è un giorno di felicità, gioia, festa, esultazione, perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo, al suo ritorno. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Io voglio vivere un tempo di preghiera, e la preghiera è quella possibilità che ci è data proprio in virtù del sacrificio di Gesù di avere connessione diretta, un rapporto personale, intimo e diretto con il nostro Creatore, perché i nostri peccati sono coperti, lavati in Cristo Gesù. E in questo tempo di preghiera voglio invitare te che hai dubbi, te che ti trovi smarrito oggi, te che hai magari incertezza sulla salvezza della tua anima. Oggi è giorno di salvezza e Dio vuole salvare la tua anima. E io voglio pregare per te e voglio pregare con te e voglio guidarti ad una preghiera. Se oggi vuoi ottenere la salvezza, non devi fare opere caritatevoli o non devi fare chissà quale gesto per conquistarti l'amore di Dio. Non c'è modo per noi di conquistare l'amore di Dio, non c'è cosa che può coprire la macchia del male che vive dentro di noi e che noi viviamo in ogni giorno attraverso le nostre scelte, i nostri pensieri, il nostro egoismo, la nostra avidità, la nostra rabbia, la nostra ribellione a Lui. Non c'è atto che tu possa fare per salvare te stesso. È per questo che Gesù è venuto e ha pagato Lui il prezzo del tuo riscatto, della tua salvezza. E quindi oggi, rivolgendoti a Lui sinceramente, chiedendo a Lui perdono per i tuoi peccati, ottieni la salvezza della tua anima e ottieni l'opportunità di vivere quella gioia che prescinde dalle circostanze, una gioia che non dipende dalle cose che ti circondano o da quello che vivi, perché è profonda, perché è viva, perché ti dà conforto in ogni tempo, perché Gesù entra a vivere dentro di te. Questa è la promessa che noi abbiamo e che leggiamo in Colossesi: Cristo in noi, speranza di gloria. Se prima in noi viveva il male e dominava il male, in Cristo ora è Lui a vivere dentro di noi e Lui vuole vivere dentro di te. Accetta che io preghi per te, anzi, se vuoi, ti chiedo, dovunque ti trovi, di ripetere questa preghiera per te stesso. Ripeti con me queste parole, invitando Dio nel tuo cuore e invitando la salvezza di Cristo nella tua vita. Ripeti dicendo: Padre, ti accolgo. Ti invito nel mio cuore ora. Perdona i miei peccati. Perdona il male che è dentro di me. Lavami con il tuo sangue. Dammi una nuova nascita, un nuovo inizio, una nuova vita. Così come tu sei risorto, fai risorgere anche me. Togli da me l'oppressione, togli da me il male, togli da me l'ansia, togli da me la malattia, togli da me ogni cosa che ha a che fare con il regno delle tenebre e trasportami nel regno della luce. Amen. Se hai fatto questa preghiera, io gioisco con te per questo passo, perché è un passo nel quale tu inviti Dio a fare la differenza concreta e ad essere la tua soluzione. Vedete, Gesù è la soluzione per questo mondo intero, ma non è solo una soluzione globale, è anche una soluzione individuale. Gesù è la soluzione per la tua vita. Facendo questa preghiera e continuando a rapportarti a Lui, vivendo del privilegio che ti è dato in Cristo Gesù di avere piena intimità e comunione con il Padre, tu hai la possibilità di vivere nella luce, nella gioia, nella speranza, accogliendo la soluzione, la vera soluzione nella tua vita che ha un nome ed è Cristo Gesù. Gesù è vivo. Alleluia. Chiesa, Gesù è vivo. Io voglio pregare, fare ancora una preghiera per ogni credente, per ogni persona che oggi si ritrova ad aver bisogno di quel riparo. Abbiamo letto in 1 Pietro che lui custodisce le nostre vite. È come se noi vivessimo in questa stagione e in questa società, in questa terra, nel mezzo di una guerra. Gesù è il nostro bunker. Gesù è il nostro riparo. Lui è la nostra rocca forte. Per utilizzare termini biblici, Lui è il nostro alto rifugio. Lui è la nostra speranza. E se tu oggi ti rendi conto che hai bisogno di più di rifugiarti in Lui, se pensieri malvagi, se preoccupazioni che vengono da parte del maligno ti hanno pressato in questi giorni, questo è il giorno della liberazione. Oggi abbiamo ragione di festeggiare la Pasqua, non solo per chi viene a salvezza, ma anche per chi crede e si rifugia nel bunker sicuro che è Cristo Gesù. Io voglio pregare per te. Se ti ritrovi ad avere ansie, preoccupazioni, situazioni difficili economiche, situazioni difficili in casa, in qualsiasi forma il male è venuto per opprimerti, io voglio dichiarare nel nome di Cristo Gesù vittoria su di te. Se stai vivendo dipendenza, se stai vivendo catene, Dio vuole rompere queste catene e darti vittoria. E io prego in questo momento, Gesù, per ogni credente, per ogni tuo figlio, per tutta la nostra famiglia, la tua Chiesa, che noi oggi più che mai possiamo vivere la vittoria e manifestare la vittoria che abbiamo in te alla società che ci circonda. Liberaci dal male. Tu ci hai insegnato a pregare questa preghiera. Io la prego per me e per ogni altro fratello e sorella che in questo momento è con me. E io prego la tua libertà dal male in ogni sua forma. Dove c'è malattia, io prego per guarigione nel nome di Cristo Gesù. Dove c'è tristezza, dove c'è oppressione, depressione, io prego la tua liberazione nel nome di Cristo Gesù. Dove c'è stanchezza, come abbiamo cantato oggi, noi troviamo rifugio in te, nella stanchezza e nel deserto. Io prego di dare rifugio e conforto ai tuoi figli nel nome di Cristo Gesù. Amen.